finito il tempo dei grandi doni, Babbo Natale non ha più i coglioni. Ora c'è un eroe che si occupa del mondo, ti porta un regalo tutto rotondo, tondo, tondo, tondo, tondo. Palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda. Babbo Natale a KO, Babbo Natale a KO, Babbo Natale a KO, se mi dispiace non lo so. Babbo Natale a KO, Babbo Natale a KO, Babbo Natale a KO, se mi dispiace non lo so. Stufo del Natale, Dr. Clapis l'ha creato, è quello che il mondo si è meritato. Per farci un regalo e rimanere a galla, il nostro eroe ci prepara una palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla. Palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda, palla di merda.